qual è il titolo? Il titolo mi fate sentire solo la mannaggia di Lero. Il titolo non è facile. Il titolo potrebbe essere L'occhio del quinto. L'occhio del quinto? Sì. Ok. E spero che nessuno di Urbaniero ci stia ascoltando, perché gli ho tipo... È il naso del sesto. Gli ho violentato la trama tantissimo e spero che non ci segua. No, tranquillo, sono uno spettatore e sono io. Oh. è strano. Pensavo che la gente stava di là. Va bene, ciao a tutti. E Jump, sai che ora è questa? È l'ora del riassunto. It's summer time. Ma non possiamo fare un jingle, un qualcosa? Giusto, per... il riassunto di oggi lo farà Gava. Allora, c'è una volta 10 personaggi. No, siamo un po' meno. Non sa neanche quanti. La prima cosa che hai detto. Comunque, io mi ricordo che stavo male. Vabbè, già che ricorda. Esatto. E stavo male, no. Che qualcuno mi accompagnava al torrente a cambiare le bende. Scusa, ma lei non era morto? Io non mi ricordo male. No, lo sarà tra poco. Ancora manca un potrebbe sembrare, visto che non se parla. Se non è morto, lo sarà tra poco. Io mi ricordo che ci accampavamo la notte, facevamo baldoria, andavamo in giro. Dai, fai storia assunto, un po' di alcolici, un po' di... Le cose che non sono cose. E poi siamo tornati alla spiaggia. Fine del riassunto. Mi sono emozionato. Effettivamente, visto che ripeta e li ricomprimi, potrebbe essere effettivamente un riassunto accettabile. No. E qualche altro volontario che pensa di poter fare di meglio? Allora, in sostanza, abbiamo finito di esplorare il villaggio, trovato tipo degli oli e sostanza fermentata bianca che ha ubriacato Federico. Okay. Poi siamo partiti, siamo andati verso una grossa collina, un barra montagna, per vedere meglio i dintorni. Okay. Abbiamo capito più o meno la forma dell'isola, abbiamo capito che c'è una specie di lago interno con un'altra isoletta interna con una capanna, qualcosa del genere. Poi oltre, dal nostro punto di vista, c'era una colonna di fumo che non riuscivamo a vedere prima. E tutto questo portando Federico con una barella perché non può camminare. E abbiamo deciso di tornare in spiaggia e abbiamo trovato una situazione un po' disperata, che c'era tipo una tizia senza una gamba, c'è tutta mezza morta, un tizio che si è suicidato, e... cioè il tizio che ha perso la moglie si è suicidato, sì. Così, e il dottore ci ha chiesto un po' di informazioni così, e poi ha cominciato un po' a aiutare Federico, ma cioè, ha detto che gli serviva roba per aiutarlo e che ti servivano antibiotici. Quindi Edoardo, di sua iniziativa, ha preso e è andato nella foresta per un portale, la San Benedetto. Ha preso tutto il possibile, ma ovviamente non gli antibiotici, perché serve la che si chiama? Diciamo che è impazzito cercando di fare roba senza farla. No, non riesco a andare. Sono provato, cioè. Anche a veterinari, perché essenzialmente le persone sono come maiali. ho dimenticato il dettaglio più importante di tutta la puntata, cioè Luca che ha catturato un porco serpente, un porco cobra. L'ha anche pulito e preparato. Esatto, la sua esperienza. Sai che se sai macellare il maiale, più o meno sai macellare tutti i tipi di animali. Esatto, infatti. Però ho preso il punto in più. E è finita con Edoardo, che è tornato con tutto, con cibo, medicine e cose, e il dottore che ha medicato Federico mi ha detto che la tizia probabilmente non ce la farà senza antibiotici. La mattina dopo ci svegliamo col tizio con Vasili, che è quello tipo che sembrava uno zombie, che gli spuntano due cose dalle tempie e che con un coltello vi sta urlando addosso. Esatto. Iniziativa. Boh, dire benvenuti e complimenti. Benvenuti a questo episodio in cui vi ucciderò in tutti i modi. Dire il riassunto non è che anche così possibile. poteva far meglio. Bisogna impegnarsi più sui riassunti, non posso impegnarmi solo io. Voglio anche i dadi, quindi. Lancia i dadi. Per me tre. Tre Jacopo. No. Io come Jacopo. Tre Marco. I sei. Cinque. Cinque Gava. Sto connettendo OBS. All'inizio del combattimento Gava soffre per il dolore e resta a letto. Più o meno sì. Gli altri? Tre. Sto per dire sei, ma dopo mi sono ricordato che ho fatto tre. Ne okay. Mancano due. Non due. Due Luca. E però lo, scusa? Ha ragione. Non so perché sono andato. Anche io dopo. Edo 2. Ah, Edo 2. Scusate, non avevo sentito. Ok, e allora io do per scontato che voi siete tutti da una parte dell'accampamento, perché vi siete messi tutti vicini, perché... Insomma... Visto che abbiamo visto l'uomo deforme che urlava, Vasili, così vuol dire che siamo usciti tipo dalle... Sì, ma non è un vero accampamento, è più una tettoia. Sì, esatto, siamo lì dalla tettoia e vediamo, sì, tutti insieme Vasili che grida insieme. Esatto. C'è Vasili che ha in mano un coltello e vedete che gli spuntano escrescenze affilate da tutto il volto e anche dalle braccia. Bene. Tocca a Gava. Cos'hai detto? No, no. Boh, torniamo a dormire. No, non ho capito il medico. Il medico ha detto tocca a Gava. No, prima il medico cosa ha fatto? Non ho capito l'ultima parte. Il medico? Non è troppo il medico. Vabbè, me lo sono sognato, ok, vai Gava. No, tanto volevi un medico per Gava. Ah, magari. Sono cosciente. Sei sveglio, sì. Ah, okay. Posso cosciente, Gava. Sì, beh, quello non voglio indagare. Ok, quindi io potrei attivare il mio potere sul tizio. Puoi provarci, sì. E devo tirare controllo, giusto? Non lo so, se non lo sai tu. Sai che faceva il potere di Gava? Già non mi ricordo perché non l'ho mai non usato. Non so neanche... Ma Gava ha un potere? Da qualche parte. Ho fatto 6. No, per la media, per... Supera la prova di controllo con D pari a psiche dell'avversario. Ok, allora, gli occhi di Gava diventano bianchi. È morto. Sì, è morto. Gava, scrivi che quanti punti fatica hai? 4. Ok, scrivi che sei sotto stress. Lo ero già. Ma è da un po' che non usava il potere, ha preso comunque punto fatica. No, però tutti quelli che c'aveva prima, da adesso è sotto stress. Okay. E basta, vedete il tizio che ti sta fissando, Gava. Tocca a... L'hai aggrato, perfetto, è geniale. Tocca a... Jacopo. E Marco, immagino. Jacopo. Va bene. Ah, aspetta, ma quindi lo aumento un punto fatica o no? Rimango a 4? No, rimane a 4. Okay. Quanto sono lontano, Vasili? E diciamo che sei lontano tipo 8 metri. No, 6 metri perché Gava ha attivato il potere. Insomma, un movimento. Ok, ok. Sembrava che avessi preso il tuo spegni poteri a distanza. Sì, però non so quant'è la distanza. Va bene. Pari al metri pari al massimale del tuo dato controllo, direi. Sì. Ma tu hai di controllo, un di 6? Cioè, quindi corta vuol dire quello, vuol dire massimo del un dato controllo, giusto? Mi è scritto prima essere... di cose. In caso sono 6, quindi penso di arrivarci. corsa sì, fino a tanti metri pari al massimale di dado controllo. Sì, ok, allora ci arrivo, provo a spegnere i tuoi poteri. Ok, fai un tiro di mente. Due. Ci sta. Ok, tu l'avevi potenziato in medio o ancora minore? Non abbiamo abbastanza XP per potenziarlo in medio. Adesso la ce l'ha minore. Adesso la ce l'ha medio. Ok. Attiva uno dei poteri dell'avversario. Potere di grado supremo. Ok. E tira un dado da 4. 4. Ok. Vedi che le escrescenze si ritraggono un attimo dalla sua faccia, dalla sua faccia e dalle mani. Ok. Tocca. Ho spento qualcosa, non so bene cosa però. Tocca a Marco. Vasili cosa stava facendo in questo momento? Niente, vi sta ancora urlando addosso con un coltello in mano. Ah, c'ha un coltello in mano, va bene. Sì. Allora, ok, gli vado addosso e vorrei provare a disarmarlo. Sei utile un po' di te. Oddio, come si fa a disarmare? Ok. Perdonami, non volevo. No, no, è colpa mia, è che io non ho la memoria. Ma noi non abbiamo mai provato a parlarci col tipo, vero? Ma perché dobbiamo parlare quando sono fatto l'iniziativa, scusami. Signore. Spingere, schiacciare, prendere tempo, lotta. Non attivare il lato diplomatico di Marco, perché poi si impunta. È vero, è vero. Ma hai l'iniziativa, bisogna uccidere. Questo potere, è stato. Cerca di distruggere il bot. Copertura, colpo mirato, raffica. C'è un cazzo qua. Quindi colpo a corpo, ti dà mancare dimensioni. Boh, non lo so. Vabbè, fai una prova di lotta. Ok, quindi fisico. Fisico, sì. Quattro. Però l'avevo letto. Boh, che strano. Aspetta, aspetta che lo sto cercando anch'io. Vabbè, comunque sia, lui ti ha spintonato via e quindi pace. Tocca a Gian. Sì, tocca a me. Allora, io... Il manuale. Come cominciamo a fargli sentire male la situazione? Ma raccontami, cosa c'ho per te? C'è per terra qualcosa che possa impugnare come arma? Le armi che avevate? La sabbia. Sabbia. La sabbia. Posso farla diventare vetro e vero. Che i bicchieri fanno di schegge di vetro fanno male. Poi magari lo accechi. Sì, ma perché siccome sabbia è propriamente capito tecnico, io aumento col mio potere di un D6 per 10. Se la sabbia fa zero, dicevo, no, aumento pure un cazzo. Ma meglio di 0 a 10, non è che moltiplica. Se la avrebbe zero. Sì, ok, ma a questo punto mi copierei. No, lui moltiplica la potenza con cui lo tira, quindi in realtà se sta tirando un foglio di carta. Ah, no, dico, cioè nel senso, invece che usare, cioè usa il potere di evoluzionista, non di potenza ah, oggetto. Ah, ok. Nel caso, cioè cambierei proprio la materia se si potesse fare la materia. Dimmi cosa vuoi fare e risolviamo. No, io in realtà allora faccio così, cerco di dialogare con lui in modo abbastanza diplomatico. Cercando di cercandogli di calmarsi. Sì, perché oggi mi sento legale e buono e quindi e quindi cerco di parlare con lui e nel caso posticipo la mia azione per avere due reazioni in futuro, capito? Ok. Qualsiasi cosa mi allontano da lui di qualche due metri, così c'è distanza di sicurezza, come dire, capito? Ok. Qualsiasi cosa tu dirai, lui risponderà al tempio, vi porterò al tempio e vi ucciderò tutti. Il quinto. Il quinto? Sì. Luca Edo. Vai, Edo. Allora, io provo a ridialogarci un attimo. Ti chiedo tipo, ma cosa abbiamo fatto? Che stai facendo? Perché ce l'hai con noi? La risposta è sempre al quinto. Ok, vabbè, ci ho provato. Anche lui ha provato. Lui ha un coltello, abbiamo detto, quindi... Beh, lo fediamo. E a Marco lì davanti che sta cercando di prendere il coltello. Esatto, vabbè, se Marco sta cercando di prendere il coltello, io ci ho parlato, lui ha risposto che mi vuole uccidere, io prendo il manganello e provo a dargli una manganellata in testa. Bravo, vai. Bravo. Quindi ti avvicini in testa o in generale? No, in testa è generico, cioè ti avvicini e tira una manganellata. Tira. Esatto. 2. Colpito. Allora, no, anche io te lo dico, scusa. Sì. 4. E poi il manganello era un D6 sempre. Penso di sì, non lo so. Ti pare di sì. Manganello un D6. Ok, quindi 50. 50 danni al busto. Ok. Vedi che gli dai un colpo al busto e lui non fa una piega. Ah. Ah no, boh. Luca? Lo colpisco con la mazza. Che mazza? Bastone. Che ammazzate allora? Uno, quindi forse mazza, non lo colpisco. Scusa. No, no, la mazza, il bastone. Io ho un bastone di 8 danno da botta. Sì, sì, sì, sì, sì, ok, ok, ok. E uno, vuoi usare il tuo potere? No. No. Ok, tocca a lui. Jump, se vuoi usare le tue reazioni, se no lui... Io a sto punto... Vabbè, caccio il mio razzo di coltello. Ok. E quello che fa lui è arrabbiarsi ancora di più. E vedi che ricrescono le escrescenze che aveva addosso. Che schifo, uccidiamolo per favore. Tocca a Gava. Io ci riprovo. A cosa? A morire? A morire? Ma perché? Ma perché non ti puoi addosso a lui l'abbraccio in questo potere? No. Ecco. Sei. Tu pensi che funzioni meglio il mio potere se lo abbraccio, ma non è vero. Mi sembra del tipo quando stavo provando i poteri. Ho fatto 3. Ma non so se il tuo potere è accumulabile. Eh? No, ho detto non so se il tuo potere è accumulabile. Tanto prima mica aveva funzionato. Se lui è già distratto da prima che l'hai usato su di lui, non so se puoi distrarlo due volte. È completamente distratto. Cioè, è distratto dalla distrazione. Quindi è concentrato. Si è concentrato. Ci sta andando bene. Gava, il cazzo, vuoi capire? Adesso che cosa vuoi fare? Non vuoi farlo disconcentrare dalla concentrazione? Sicurare ciò ma che no, fa... continua a tenerlo deconcentrato. Massimizza la deconcentrazione. Forse sì, salva. Non può tipo fare quello che continua. Ah, bravo, il tuo difetto è concentrazione, vero? Sì. Ah, quindi tu perdi tutto il tuo turno a stare concentrato su lui. Se vuoi tenere il tuo potere attivo. Certo. Ok, allora rimane concentrato. Perfetto. Chi tocca dopo di te? Jacopo? Sì. Fuori secchi, tigre. Fuori secchi. C'è Marco vicino a Vasili, giusto? Sì. Sono Marco, Luca e Edo. Ok. Io provo a rispegnergli qualche potere. E tanto... Che potere vedi attivo? Cioè, se gli hai tolto le escrescenze, cos'altro le devi togliere? Tu non hai limiti. No, io ho dei limiti, però non so cosa altro fare. Vabbè, mi avvicino, lo picchio anch'io, dai. Per adesso... Comunque, devo dire una roba a Gava. Dica. Per mantenere la concentrazione basta che non ti muovi, in realtà è ancora la tua azione. Ah, ok. Però se faccio qualcosa di diverso da tenere la concentrazione, spengo il potere. No, no, no, hai un'azione, mi pare di capire. Finché Liro si concentra, per farlo deve rinunciare al movimento, quindi puoi usare l'azione normalmente, puoi anche in realtà muovere. Sì, la risposta. Se vedi un contatto reazione e risposta, sì, sì, sì. Vabbè, non faccio niente, cioè mi tengo concentrato. Okay. Si afferra Jacopo... la gamba e grida per il dolore. Ho fatto 3. Sì, ma non ho capito cosa vuoi fare però. Mi avvicino, lo picchio col bastone. Ah, ok. Viva la diplomazia. Se vero non giusto. Ho fatto 3. Ma giusto, il tizio non ha fatto la locazione? Niente. Locazione 7. Ha colpito. 7 sì, ha colpito. 3 sì, ha colpito, ma serve 1 per mancarlo. Ok. Ma il tizio non ha fatto niente nel suo turno. 40 danni. No, no, ma perché ti sta una Gava, è grazie a Gava che possiamo controllare. Scusate, è tutto calcolato. 40 danni al 7, 7 è la gamba, quindi colpisce la gamba destra. Gamba destra. 40 danni. È un punto debole. Ok. È il punto debole di tutti la gamba destra. Marco. ci sono 3 persone. Praticamente c'è questo poveretto qua che sta delirando, 3 tizi sono arrivati adesso, lo stanno picchiando, adesso uno solo disastro. Allora, praticamente funziona così, la difficoltà per colpirlo è, normalmente è 2, e quindi in realtà se fate 2 lo colpite. Ok. A meno che non sia a distanza in cui la difficoltà è 3. E Marco? Lui ha ancora il coltello in mano. Sì. Riprovo a togliergli il coltello. Tira. Per evitare che lo usasse su di noi. Vabbè. Fisico. 4. Riesci a bloccarlo e a tenerlo fermo e gli... Okay. Praticamente gli tieni la mano col coltello. E... jump ora non gli è quello che stavo per fare. Allora io afferro il coltello dalla parte della lama senza fare di problemi. Ah, e jump, tu sei a 8 metri quindi un movimento non ti basta. Esagerato. Vabbè, ma io sono slanciato, non conta. Sì, tu vedi, sei non faccio palestra. Comunque è incredibile che non ci sia disarmare come azione nel manuale. Ma magari c'è e non l'ho visto. Andare sul manuale e fare disarmare. L'ho provato, non viene fuori niente. Vabbè, allora io... Magari è un'espansione. DLC, sembra che ci ho fatto. Mi dicevi che io per muovermi ho bisogno di 2 movimenti. No, per arrivare da lui sì. È quello dico, per arrivare da lui. Sì. Per muoverti te ne basta uno. Sì, sì, nel senso, sì. Grazie, sempre così. Allora, vabbè, ma se mi avvicino a lui non posso fare più la mia mossa, perché ho usato le 2 azioni. Fotte sega allora, mi avvicino un po'. Ma però c'è la reazione dopo. Puoi reagire, farti colpire. Ma così. No! Allora, c'è qualcosa che posso togliere? Cosa scusa? Mi sono fissato a raccogliere le cose. Guardandoti attorno vedi che tutti gli altri sono impauriti e si stanno tenendo lontani da lui e basta, ci sono i vostri oggetti, quelli che possedevate. Ma boh, a questo punto allora io mi lancio la e arrivo a 6 metri di distanza ovviamente. No, vicino al più possibile. Quando è che mi posso avvicinare a lui il più possibile con un movimento? Un di 6, se sono 8 metri, può arrivare a 2 metri da lui. Secondo. Non posso tirargli la sabbia, non l'ho colpito. Puoi tirargli la sabbia se vuoi. Gli tiro la sabbia per distrarlo. No, per accecarlo. Per accecarlo, lo acceco. Tira per colpire. Tiro per colpire. Meno due. Meno due. Due. Ok, colpisci lui e un altro a scelta tra 1, 2, 3, 4. Ok, colpisci lui e Luca. Tira per la locazione. Tira per la locazione. Ah, pure una locazione. Io pure anzi, no, colpisci lui e Marco perché sono attaccati praticamente. Vabbè, 5. Quindi il vostro braccio destro è pieno di sabbia. Quindi in realtà il tuo tiro è troppo basso e tu colpisci lui e Marco con della sabbia. E non faccio, scusa, devo tirare i danni. Tocca a Luca e Edo. Mi sono divertito così tanto. Non so le emozioni descrivibili. Vabbè, vabbè, io non so cosa voglio fare. Riprovo a colpirlo. Due. Colpito. Allora. Non sapete che... Stunno le persone a distanza. E basta. Allora, non ho capito cosa ha fatto Oddis, però. Allora, colpito 50 danni al 6. Cos'è il 6? 6 è il braccio sinistro. Ok, colpisce il braccio sinistro e che non è quello col pugnale e il tuo bastone si spezza. Merda. Probabilmente si spezza nel contatto contro tutte le scaglie e ti accorgi che è pieno di queste punte su tutto il corpo. È strano che la sabbia mi ha fatto piedi. Che tristezza. Edo? Allora, Marco ha bloccato la sua, il braccio destro, quindi immagino. Sì. Allora provo a dare una botta col manganello sul pugnale per farglielo cadere. Difficoltà 5. Ci provo, sì. Mamma mia. No. No. Tocca a lui che lascia allora andare fa qualcosa. Allora fa qualcosa questo uomo, lascia andare il coltello e ti tira un pugno fortissimo in faccia, Marco. Perfetto. per cercare di trattenerlo. No, devo... non ti colpisce in faccia però. Okay, per cercare di trattenerlo devo rinunciare alla mia risposta o... No, no, puoi usarla per schivare. Ok, cerco di schivare, però voglio continuare a tenerlo. Tira. Scusa, devo schivare. Ho fatto uno. Ho fatto uno. Ti colpisce. Ti colpisce. Ragazzi, al 4. Giusto. Sì. E ti fa... Aspetta, dov'è il potere? Il potere... Incente, infligge un dato controllo per danni e aggressione. Quanto fate disarmato? Un D4. D4, sì. Quindi ti fa... Disarmato, inizia con cosa. 60 danni. Se posso aumentare la cinetica dei miei piedi. Quanto mi fa, scusami? 60 danni. 60 danni? Che se io non ho armi, non so. Sì, capisci che quelle scaglie sono molto, cioè quelle punte sono molto dure e ti fanno anche scusate, particolarmente ero, male. Io ero disconnesso un attimo prima, quindi le punte sono tornate. Sì, sì, sì. Ok, quindi Jacopo ha esaurito il suo controllo. Sì. Però tocca grazie. A Gava di nuovo. Continua a fare abbastanza forza per andargli addosso e tirargli un pugno. O sono troppo malaticcio e stanco. Devi rinunciare al movimento, quindi in realtà puoi usare la risposta. No, non puoi. Puoi muoverti e il turno dopo farlo. Puoi muoverti e farlo il turno dopo se vuoi. No, allora rimango fermo. Oppure e puoi... devo continuare a concentrare. Ok, perfetto. Fatto che io lo tengo fermo, almeno mi dà qualche vantaggio ai miei compagni. O... È immobilizzato, quindi è più facile colpirlo. E... Jacopo, sì. Lo impicchio col bastone. Vai, anzi no, vedo che lui sta facendo male a Marco. Sì. E tipo alzo la mano per... No, fermo, faccio tipo così e mi esce un raggio dalla mano. Vai. Cosa devi fare? Devi tirare per colpire? Sì. Sarà un tiro a distanza. Tiago, ma che fai? Tiro a distanza però in corpo a corpo. Guarda. Cazzo è? Ma sto presente. Non solo, è un tiro a distanza in corpo a corpo con uno in corpo a corpo. Ho fatto 4. Allora. Ah, giustamente, perché se sono un corpo a corpo dovrebbe essere... Fatto? Però che l'arma sia minuscola, quindi aumenta di 1 la difficoltà. Hai fatto 4? Sì. Colpito. Locazione 4, danni 4. Cioè, aspetta, no, sbagliato, non 4. No, è un dato controllo per 20, quindi 120 danni che ho fatto. Porca però! Devi dirmi la locazione, però. Giusto. Quanti danni? 120. E lo fracassiamo. E va giù. Guarda la mano. Cristo santo. L'energia è Goku. Ho incanalato tutta l'energia nella mano. E ora. Ok, lo colpisce al busto e lui viene scaraventato via da Marco. Merda. A terra. E quanto hai di psiche, Jacopo? Ho 6 attualmente. Quindi ora hai 5 e mi fai una prova di psiche. Perché ho usato il nuovo potere, sì. Io sto veramente impazzito, cioè sto veramente... Il tuo difetto è quello, l'hai tirato tu. Ho fatto 4. E tipo, okay. Di fianco a Jacopo ci sono io che faccio... Vabbè, niente, hai 5 di psiche. Salla, ma che difetti c'ho dei miei poteri? No, allora, cioè, oltre al difetto, questa cosa mi sconvolge. Che difetti c'ho nei miei poteri? Io non ho difetti. Tu non hai difetti. Sei perfetto, Giuseppe, volevamo dirlo. Tocca a Marco e vedi questo raggio laser che sbatte via il tizio davanti a te e ci rimani un po' come un... Oh, io che servo? Posso andare a casa? E che... Una volta eri utile, ora abbiamo di meglio, mi dispiace. Ok, grazie già. Apprezzo molto questa tua sincerità. Il tizio hai detto che è stato scaraventato a terra. Sì. È tipo a un metro da te. Ok, vorrei agguantarlo per cercare di fermarlo a terra, tenerlo a terra e cercare di immobilizzarlo. Tira. Non letalmente per quanto. 6. Ok. Sembra che tu riesca a tenerlo in questo momento. Tocca a Jump. Allora, quindi mi si è allontanato di altri 6 metri, scommetto. No, di un metro. Oh, ok. È a 3 metri da te. Ma quindi adesso è Yundera. È a terra e sopra di lui c'è Marco. Quindi se vado col coltello posso accoltellare. O colpire Marco. Marco. O posso aiutare Marco? Aiuto Marco a fare quello che sta facendo. Che stai facendo, Marco? A terra dovrebbe conferire un +1 a tutte le prove del... Lo sto leggendo adesso, Non è anche immobilizzato, quindi in realtà la difficoltà è 0. Vabbè, allora io sinceramente vado là. E non voglio ammazzarlo però, mi dispiace. Oggi sono le gare buono. Dai, jump su. Vabbè, allora il coltello... Posso scegliere una locazione e tirare? No, devi mirare. E non puoi farlo perché ti sei spostato. Vabbè, lo colpisco. Oh, tira. Ma come, e qui è come D&D, posso decidere di non uccidere. Di 6. No, già 4 ho fatto per colpire. Ma colpito, tira locazione. 2 Cos'è 2? Booster. Booster. Ok. Tira i danni. Tiro i danni immediatamente. Sì, scusami, faccio subito. 2 secondi proprio. Ok, sì, è un D6. D6. Sono fatto 30. Ok. Gli dai un colpo fortissimo al busto, vicino a Marco, passi a un millimetro vicino a Marco, che ti guarda tipo, ma che palle oggi, tutti sparano a me. E il tuo coltello, cioè lo lasci... Conficcato. Conficcato. Tocca a Edo e Luca. Luca, il tuo bastone è rotto. Sì, mi ricordo. Quindi Marco l'ha immobilizzato. Sì, cioè voglio dire, sembra essere stato disinibito, no? Tra le cose che abbiamo raccolto dalla barca ci stavano delle funi. Sì, avremo anche una rete di corde, sì, tra l'altro. Voi avete una rete? E le funi c'erano, ma non sapete dove sono, perché poi ve ne siete andati e le hanno usate gli altri. Ok. La rete si può usare per legarlo, volendo? Cioè, per provare a legarlo? Si puoi provare. Ok, ci provo. Vai a prendere la rete. Edo. Vai a prendere la rete. Aiuto Marco a tenere fermo il tizio, se posso. Ah. Vabbè, ti avvicini anche tu. Mentre ti avvicini, tu Jump tiri su il coltello, vedi, sì, che il coltello è piegato così. Ma stai scherzando? E mentre lo stai guardando, vedi che lui sta sorridendo e tira un cartone fortissimo a Marco. Ci sta. Non so che non mi d'accordo. È così che si fa. E ti mira alla testa, Marco. Mi mira alla testa. Sì. Che posso fare? Dovrebbe comunque essere un po' in svantaggio, no? Colpire. Prova a schivare se vuoi. E comunque provo a schivare. Ehi! Ok. Quello che succede è che lui ti dà una testata in testa, fortissima. Ah, boh. 4, ti fa 70 danni alla testa. No, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Quanto sei? A meno 10. No. 10, allora, sei sotto shock. No, non posso usare... no, perché tanto poi è inutile. No, cioè, perfetto. Sono svenuto tecnicamente. Cadi a terra, hai un taglio profondo in faccia, puoi metterti, sì, meno 5 punti ferita alla testa. Permanenti? Che permanenti. Bello. Sì. E sei svenuto a terra. Uno svenuto svenuto? Sì. Che bello. Ok, io stavo cercando di risolverlo in maniera pacifica, ma forse non conviene. Tocca a... il tizio si rialza. Tocca a Gava. Pure risposte. Ho letto cosa fa di preciso distrarre e sono troppo felice e continuo a farlo. Mm-hmm. Sì, non può schivare i vostri colpi. No, cioè rinuncia a una cosa tra azione, movimento e risposta. E quindi rinuncia. Non ha mai schivato i vostri colpi. Vabbè, giustamente. Non è vero. Tocca, dicevo, a Gava. Quindi cosa fai? Mantieni la concentrazione. Sì, sì. Okay. Puoi comunque fare un'azione, Gava. Di qualsiasi altra cosa che posso fare. Salva. Jacopo. Vabbè, io sono un po' troppo scioccato al momento per... Sì, io sparerei un altro raggio, così. Vabbè, allora facciamo che mi riprendo. C'è la scena tipo... Super Saiyan! Lina mi fa un attimo riprendere e provo a sparare un altro raggio. Ok, metti un punto fatica e fai una prova di fatica. Dopo, no, prima spara al raggio, va, che vediamo. Ho fatto 6. Colpito. Locazione 1. La testa. Orca troia. E adesso 40 danni. Vabbè, ma lo sì. Che pippa. Ok, vedi che lo colpisci, rifai Marco, no, lo colpisci in testa, lui non si sposta neanche, tipo gli passa in testa e... oh. Prendi un punto fatica, no. Jacopo, e fai una prova di fatica. Non ce n'hai uno? Ho fatto 5, quindi è posto. E l'altra cosa, fai una prova di mente. Sei. Ok. Jump. Io mi sono proprio incazzato perché sai quando mi si rompono le cose mie mi incazzo. Allora io potenzio il mio cazzo di... Guarda la parola qua. Va bene. Potenzio il mio coltello. Quindi spero che torna normale tra le cose, potenziandolo dalla piegatura. Va bene. No, dimmi tu, sei tu il dio qua. Ritorna normale, è un po' più grosso. Ci sta. E faccio, la vedi? E la colpisco. Quindi lo usi come reazione il potere, per cui metti un punto fatica. Ah no, aspetta, se uso il potere non posso colpirlo. Dipende se lo usi in una reazione o in un'azione. Tra l'altro ho letto che se usi il potere come reazione dura questo turno e basta. Sì. Ma allora uso come azione il potere. E poi ti prepari a colpire al prossimo turno. E mi preparo a colpire e casomai mi allontano di un metro. Ok. Comunque sono là. Tutti con pelle invincibile quelli che ci fai affrontare. L'avventura non l'ho scritta io. Sì. Tra l'altro lui non ha, lui ha pelle invincibile e escrescenze, sì. E non hanno neanche scritto le locazioni, quindi io ho dato per scontato che lui abbia preso testa e busto, però non c'è scritto nel manuale. Concordare un po' anch'io con gli altri, poteva essere fatto un filino meglio. Che cosa? Male, poteva essere fatto un filino meglio forse, in alcuni punti, diciamo. Non ma vediamo. In quello dell'avventura? Entrambi. Cioè, in quello dell'avventura c'è la sua scheda del personaggio e lui dice che ha pelle invincibile e escrescenze. E c'è, praticamente c'è un modo solo per disattivarglielo e se no prendi solo delle legnate perché sei a livello 1. Vai, tocca a Luca Edo. Io stavo andando a prendere... Stai cercando la corda quando senti intanto delle urla e voltandoti un secondo vedi quello che è successo. Non le corde, non rete, scusa. Ok, però continuo a fare quello che sto facendo. Ok, prendi la grazie. Rete, poi? E corro verso di loro. Ok, Edo. Edo sta di là. Ok, Edo si allontana, spaventato. Tocca a lui, che ha Jump davanti, e gli tirerà un bel pugno. Mi stai scherzando? Lo schivo assolutamente. Tira. La durezza come funziona? Dipende dal materiale. Perché tecnicamente lui ha anche durezza 60. Se 60 più i 10 delle escrescenze. Ho fatto 6, è un D6, ti prego, dimmi di sì. Hai evitato il pugno. E andiamo così. Jacopo. Aspetta. Ah no, niente. Scusa, Gava. Avete che ormai Gava sta solo facendo... Sì, io ho l'azione default. Ok. Jacopo. Quanti turni sono passati però? Sono passati 1, 2, 3, 4, mi sa che è il quarto. Continua a sparare. Dai, spara, cazzo. Vai Jacopo, diventa il nostro, la nostra torretta di... Ho Ho fatto di nuovo 6 per colpire, l'ho colpito al busto e ho fatto 80 danni. Oh, vedi che lui viene sbattuto ancora più indietro. E niente, si rialza. E perdi un punto fatica. No, mi sa che devi togliere 60 ogni danno che fai. Prendi un punto fatica e fai una prova di fatica. Ragazzi, sto per finire i colpi. E mi fai un bel tirino su mente dopo. L'importante è che 4. Non possa schierare. Ok, mente. E 4 prende la mente. Non mi ricordo quanta è la difficoltà, mi sa che è più bassa, mi sa che è tipo 1 o 2. Sì, quando sto a 5 mi sa che ho 1 o 2. Sì. Va bene, tocca dopo di te a Gianfu. A me non tocca, vero? No. Io non posso, letteralmente non posso fare nulla. Niente. Anche se ho il potere che mi rigenera, non posso attivarlo per istinto di sopravvivenza. No. Allora, io potenzio il mio pugnale, che è già in evoluzione. Ok, sì. E basta, e perdi il turno. E mi allontano di un metro. Visto che tanto il tuo... Quanto ti sto da lui, per capirci? Sei in corpo a corpo? No, no, via, via! Via, via, via! Lontano! 6 metri, ti allontani di distanza. Se di 6 metri. Però prendi anche un punto fatica se hai un altro potere. Strane... No, okay. Boh, è diverso. Io scappo. Faccio ciaone. Ciao. Ciao. Ok, Luca, Edo. Allora, il prossimo turno è finito. Io sono un attimo sorpreso dal fatto che il coltello di Jump fosse semplicemente piegato, non fosse entrato nella sua carne. Ah, cos'è che ti sei... Tu ti sei perso anche il round di chi altro? Forse il mio quando mi ha dato la testata e sono finito a terra? In poi, da quando Marco è morto in poi. Allora... Marco non è morto, allora... per ora, è svenuto in un angolo. Jacopo dopo gli ha tirato una laserata e non gli ha fatto un cazzo in testa, l'ha colpito. E poi basta. E poi Gianfa è scappato. Ma però poi l'ho colpito al petto, gli ho fatto un pochino. Ah, poi okay. L'hai colpito al petto, giusto. Allora, vabbè, io ho un'altra desitazione perché vedo tutta la scena che un po' mi disturba psicologicamente. E poi istintivamente vado verso Marco che è stato preso a testate e cerco di, non lo so, di medicarlo un minimo. Cosa Marco è svenuto e ha un taglio qua sulla fronte. C'è un modo per farmi riprendere coscienza in qualsiasi modo? Non lo so. Allora, da film, prova a dargli qualche affetto. Fai un tiro di medicina. Di primo soccorso. Mente. No, il trucco è sempre quello di fargli pipì addosso. 5. Funziona con le meduse, funziona anche per lo svenimento. Non si sveglia. Luca? Hai una rete, sei vicino a lui. Non c'è un due. Speriamo che c'è una botta di culo che riesce a catturare. Sì, ma come lo catturo? Boh. Niente. No, beh, però la rete non è una brutta idea, gli può impedire i movimenti, renderlo più facile da colpire. No. Vi ho detto escrescenze taglienti. Fantastico. Cioè, ve l'avevo detto prima, ve lo ricordo. Però in testa è giusto, cosa vuol dire? Le braccia sono... Se fa tipo così. No, il braccio pure c'era qualcosa, mi hai detto, no? Anche le braccia ha escrescenze. Sì, me l'avevi detto, infatti. Quindi ovunque, quindi quanti poteri è la donna, sa. Oh regà, la scheda non l'ho fatta io. Sì, così. Quindi in sostanza dobbiamo tramortirlo e poi forse lo portiamo tipo salame nella rete. Vabbè, allora, provo lo scenario ha due possibilità. Uno è scappate come dei maiali, date in pasto il resto dei naufraghi. La seconda è che provate a picchiarlo davvero. Abbiamo già ucciso uno con pelle invincibile, ricordiamo, quindi la strategia che abbiamo usato allora potrebbe tornare. E non ci vuole la volta, che è quello il problema. Sì, c'è anche la strategia che avete usato prima. In realtà gli avete fatto anche parecchi danni, soprattutto al busto. Avevamo una pistola a quel tempo. Una pistola. Vabbè, adesso hai un coltellaccio e sei, e non per dire, ma sei esattamente in sincronia con Jacopo che viene prima di te. Più che altro, il mio laser a pelle invincibile. Nel senso, non dovrebbe un po' ignorare un po' di robustezza del materiale? Cioè. Mi sembra giusto, è un'ottima osservazione. Che non è che gli sto tirando qualcosa, un proiettile. È giusto. No, cioè, lo chiedo... Nel tuo il tuo potere non dice tipo ignora le resistenze? O... No, ma non c'è scritto nulla. Cioè, io ho copiato qui tutto quello che c'è scritto, ma... Guarda, mangi voi, Giovanni. Francia. Cioè, quello che c'è era una differenza fra la robustezza del materiale e la tua. Quella della porta, ma è un gioco che mi ha dato una lingua. Raggi. Rigia divina, tipo laser, secondario, bersaglio... Di danno è determinato dal dominio, tra l'altro, quindi tu che dominio hai? Laser. Perché non lo so, se fosse fatto con senso ve lo direi. Vabbè, no, tranquillo, dai, dicevo solo così come osservazione. No, non dice niente sull'ignorare le... Vabbè, tranquillo, non fa niente. Intanto Luca, ti ascolto. Prova a dargli un calcio. Tira. Uno. Mancato. E... Tocca a lui che ti tira anche lui un calcio. Puoi provare a schivare o a parare? Paro. Tre. No, pari o schivi? Paro. Pari o schivi? Paro. Eh? Paro. No. No, schiva, c'è un batto di culo, te. Tipo... cioè, tipo tre. Schivato. Vuol dire botta di culo. Boh, probabilmente è tipo un danno da calore. Ah, quindi? Credo. Quindi uscione di... No, voi giocate, guardo io se trovo qualcosa, dai, che tanto non c'ho da niente. Ok, fare. Dicevo, tocca a Jacopo. Comunque. Vabbè, comunque non me ne frega niente, no. Ok, perfetto. Ho fatto 6, quindi colpito. Ah, non seguite la strategia di Marco, ok. Cioè, qual è la strategia di Marco? Ricordate, abbiamo già ucciso uno che aveva pelle invincibile in un modo abbastanza specifico. Qual era? Tira la locazione. Jacopo aveva pelle invincibile e poi noi gli facevamo il culo, ma va bene. Locazione. Locazione 8. Ok. 100 danni. Porca troia, cos'è 8? Gamba sinistra? Gamba sinistra. Ok, la gamba sinistra cede. E cade a terra. Cede, non esplode, tipo? Per esplodere deve fare meno 100, in realtà. Ah, ok, no, era per scusa. Però tipo gli trapassi la gamba o una cosa del genere? Sì, probabilmente sì. Un po' di fatica. Sì. E vabbè, probabilmente l'ho superata... Quindi sono... No, di fatica cosa hai fatto? Non ho capito. Ho fallito, ho fatto 2. 2 su? Avevo 3. Cioè, avevo 4, scusa. Ah, 2 su 4. Aiaia. No, ho recuperato i punti di fatica, io mi ricordo di sì. Mi ha recuperati 2, quando abbiamo dormito. Non c'è più. 2 su 4, distratto. Devi rinunciare a movimento, azione o reazione ogni round. Tocca a Jump. Gli lanci il coltello. Tira. Ah no, aspetta, ti posso chiedere una cosa? Senza che farti innervosire, però. Se io arrivo là e lo colpisco di la mano, c'ho anche la potenza, sì. Sì. Là c'è scritto impatto, perché io aumento l'energia cinetica, però obiettivamente non c'è tanto senso, perché sono io che sto andando alla velocità. Quindi decidi tu. Qual è il tuo potere, Jump? Il potere c'è scritto espressamente che io posso farlo. Qual è il tuo sì, potere? Lo puoi fare, mi ha rotto le palle. E... No. Quindi provi a colpirlo in corpo a corpo. Ma se... un'altra domanda e poi veramente non ti disturbo più, promesso, te lo giuro, veramente, certo, te lo giuro. Sì, sì. Se io colpisco in corpo a corpo, aumentando la difficoltà, posso scegliere una locazione? Oh mio Dio. Si chiama mirato e non lo puoi fare se ti muovi. Mannaggia Sand. Però a distanza sì. Distanza sì. Onesto. Lo lancio. Aspetta. La difficoltà aspetta. È 8. Quindi puoi usare un punto psiche. Ah, perché sennò non lo supererei mai. Visto che c'è un di 6. Ottima osservazione. No, non fa niente. Tiro e vediamo se c'è una botta di culo. A tirare no. Uno. Aspetta. Però col punto psiche lo colpisci molto... facilmente, perché fai hai un quant'hai di psiche 6? Sì. Quindi ti basta un 3. Un no, 2. Vabbè, non voglio morire psiche attuale, tra l'altro, già. Esatto. Attuale. Quindi con un 2 lo colpiresti dove vuoi tu. Io te lo dico, poi vedi tu. No, tu stai barando, tu mi vuoi. Io non tu posso schivare, tra l'altro. Tu mi vuoi uccidere. No. Allora niente, facciamo come le cose standard. Lancio. Tiro per colpire, tiriamo, di 6, ho fatto 1. È un D8, ah no scusa, per colpire scusa sì. Ho fatto 1, grazie a sto cavolo, niente. Sei non potevi usare. Avresti mancato anche per fare, anche con la psiche quindi. Ah. È andato tutto a puntare la mia idea, però sono contento lo stesso. Mi è puntato. Cazzo di mese. Cazzo di mese. Che mese. È così la vita. Ok, perdi il coltello e tocca a Luca Edo. Non avrei mai film. Ci ho fatto 1. Ho fatto prima 6. Ci sto. Luca e Edo. Edo, vai tu. Io non... Vado io, ok. Provo a... Allora, un attimo che non mi ricordo una cosa. Le medicazioni, tutto quello che ho portato io da San Benedetto, dov'è in questo momento? L'avevo lasciato al medico? È a 8 metri da te nell'accampamento. Allora... a prendere qualcosa per disinfettare. Marco non sembra che stia crepando, cioè non perde tanto sangue. Devi solo cercare di farmi rinvenire, giusto per dirtelo proprio. Vabbè. Non hai dei sali su di te? Sei dei sali? Non puoi avere sali, cose del genere. Metto la testa in acqua. C'è il mare. C'è il mare a un paio di metri da te. Correggiami in faccia. Vedrai che rinvengo. Cristo santo. Vado a prendere disinfettante e bende per curare Marco. Provare a curare Marco. Luca. Io intanto tipo sto sognando un monologo interiore sul fatto che dovrei essere più aggressivo a volte. Sul fatto che siete delle seghe, perché non so cosa fate per round e round. Io provo a colpirlo di nuovo. Con le mani? No, sempre con i calci, perché ho paura di... Sempre con calci, perché ho paura che con la pelle squamosa mi... Sì, lui è... Praticamente si regge sulle ginocchia. Mm. Quindi in realtà potresti fare anche un mirato. Però ti sei accorto che neanche il pugnale è riuscito a fare del male. Lo so, ma che posso fare? Cioè, nel senso... Puoi prendere il tuo potere secondario ora? Sei ancora No, secondario no, il potenziamento posso prendere. Però puoi prendere il potere secondario. Raggi anche tu. No, io non ho abbastanza esperienza. Eh? A vedere, ma non ho abbastanza esperienza per il secondario. Te ne bastano 20? Che sei fatto fino a muore? Così non c'è 20 punti di esperienza. Che sei comprato? Ah, no, sì, è vero. 20 numero poteri 2. Tra l'altro, tra i tuoi secondari ce n'è uno che ora vi farebbe molto comodo. Si sta barando, non ascoltarlo. Lui è contro di te. Comunque vuole... sei un leso. Lui vuole il male, vedi, vedi, ho fatto uno. Lui l'ha già programmato tutto. Va bene, mentre ci pensi... No, vabbè, gli do... vabbè, gli do un calcio. Non, lo, li ho cercati prima, non... non... fatto 5 a colpire. Colpito. Aspetta, miravi da qualche parte? Non ho mirato. Vabbè. Allora. L'ho colpito a 5 e ho fatto... Aspetta, il calcio come si fa il danno? No, di 4. Sempre di 4. Ah, sempre di 4. 30 danni. Ti senti il colpo molto forte, come se avessi dato un calcio a qualcosa di molto resistente. Mm-hmm. E ti fai anche un po' di male. E... tocca a lui, che prova a colpirti di nuovo. E ti colpisce. E tu provi a schivare. 3. Schivato. E Jacopo. Vabbè, Federico è automatico qui. Sì. E io sono davvero allo stremo. Comunque Luca devi guardare a pagina 150. Allora. Troppo avanti. Jacopo, dicevi, scusa? Faccio un ultimo sforzo, provo a sparare con tutta la mia potenza. Ce la faremo mai. Però... ecco. Ho fatto 4 per colpire. Ho fatto 2, l'ho colpito al busto. E ho fatto 120 danni, però. Bravo. Al busto, purtroppo, non credo. Oh, 120 danni al busto. Sì. Ok, vedi che colpisci molto molto forte e la sua, i suoi vestiti si bruciano e lui cade a terra. È ancora vivo, ma è privo di coscienza. Balla lì. Boh. Bello, punto c'è stato fatica, anche proprio... Ciccio. Il finale. Ho fallito, posso fare tipo, ho fallito la prova di fatica, ho fatto 2 su 5. Posso fare tipo sì, poi cado tipo all'indietro svenuto. Puoi farlo, mi fai anche un tiro, una prova di mente però. Mente. Ho fallito anche la prova di mente, quindi anche, diciamo posso... perdi un punto psiche, fai una prova di psiche. A catena questo. Ah, ma di psiche l'ho superata, però svengo lo stesso. Ok, va bene. Va bene, la calma è ritornata nell'accampamento. Cosa c'è di calmo? Quando vi avvicinate a Vasili, quando vi avvicinate a Vasili, notate che non ha tagli né ferite, è solo svenuto dalla botta. C'è ancora vivo. Sì, sì, sì. Però sì, sì. Aspetta. Però ha ancora tutto. Vabbè, io non lo so. Cioè, beh, in caso, ha ancora tutte le squame oppure è diventato sì, normale? Sì, sì, ha ancora tutto. Non possiamo annegare. Ci ho pensato, era più idea. Oh, se non muore con le botte, dato che è svenuto, lo tiriamo in acqua e lo anneghiamo, scusa. Salla, perché... le squame non possono fare niente contro l'ossigeno quando manca. L'ossigeno. Marco ha resquittato. Credi che è il nome. Marco resquitto, cioè proprio... Ma ti posso chiedere una cosa, Salla? Durante il combattimento abbiamo no, visto... No, no. Sì, grandissimo, però no. Salla, una curiosità, ma abbiamo notato dei segni particolari? Nel senso, atteggiamenti, modi del tizio che faceva in modo, non so, regolare, qualcosa del genere, non ti so dire. Qualcosa che ci può ricondurre a... Dici in retrospettiva, no. Retroattivamente? No, non vi ricordate niente. Okay. Ah, tu dici l'avrei fatto nel momento, forse. Sappiamo soltanto che lui ci diceva vi porterò, vi sacrificherò tutti al tempio, il quinto. Sì. Solo questo. Sì. Ok. Ma stiamo aspettando che rinvenga o ci attiziamo per ammazzarlo? Io prendo il mio pugnale, che dovrebbe essere ancora potenziato. Mm-hmm. Niente del potenziato. E io provo, delicatamente, senza rovinare il pugnale, no, a perforargli... Non gli fa niente. A perforargli il petto. Ce la faccio un po', per curiosità? No, ok, allora dobbiamo annegarlo. Sa, lei non posso comprare spegni poteri. In teoria sì, perché proprio spegni poteri? No, non posso, non voglio, volevo dire. No, tu non dicevi quello? Scusa. Ma dicevo, allora, ce ne sono alcuni sgravi. Anonimità, sostenere attiva poteri, quando la solidità, condividere cura. Quando si ha la pelle più dura del mondo, anche se è lì che... Quindi tipo, spegni poteri, super combattente. Ce ne hai alcuni che sono molto forti, tipo cura è molto forte, anonimità è molto forte, super combattente è molto forte. Io farei super combattente, ormai mi sono allenato coi calci. Super, leggiti tutte le robe e poi decidi. Per me sì, adesso, ma perché l'altra volta la stavo cercando, mi avevi detto che era meglio potenziare l'oggetto. Sì, ma lei, io... No, non ho detto che è meglio, ho detto che puoi farlo. Bella bicocca. Sì, ecco. Risposto. E nessuno vuole la cimbella bicocca. Sicuramente no, così. No, è bassa. La roba. Però c'è la ha fatto di male. Ma possiamo prendere quella lì? Possiamo prendere dalla funivia? No, posso no. Allora niente, per quello. Se no l'avrei preso. Oh! E niente, abbiamo detto niente gelato qua. Vedete che il medico si sta avvicinando spaventato? Vi dice... Chi il medico. Il dottore. Dice, siete stati molto bravi. Grazie di averci salvato. Tranquillo. Cioè, lo dico. No, non, tranquillo no, perché si sveglia. Ora vedo di curare il vostro amico. Intanto pensate a qualcosa per lui. Io lo controllo, portafoglio, soldi, carte di credito. L'avevi già fatto all'inizio. E non c'aveva niente questo. Poveraccio. Ma è impossibile. Se l'avessi fatto l'avrei scritto. Lo sai che non mi dimentico mai di scrivere i soldi. E non ho un credito di soldi. Io non ti ripeto un cazzo, quindi o ti riascolti la puntata o peggio per te. Veramente, ho sentito di citare, ti riascolti. Interessante. Allora, io continuo a... Cioè, vado a prendere le bende, il coso e... Cerco di fare... Ti aiuta anche il dottore. E okay. Riuscite a fasciare Marco. E sia Marco sia Jacopo stanno bene, sono solo svenuti. Ok, cerco di... Il dottore ti dice che probabilmente il colpo di Marco è molto... È stato molto forte e non sa se si risveglierà presto o se riporterà danni cerebrali. Minchia. Ah. Vabbè, tanto lui guarisce. Ah, davvero? Ah, beh. Fortunato. Provare proprio così. Boh, allora propongo di legare il tipo con la rete se ci riusciamo in qualche modo, di stringerlo bene, appiccarlo da qualche parte. Riusciremo a tenerlo fermo, perché guardate che è molto forte. Ma è svenuto? Sì, per una volta si sveglia. No, usa... perché quando lo leghi, un capo della corda, lo leghi a un masso e poi lo butti in mare. Magari il vostro amico ha ragione, non lo so. O io l'ho detto, poi fate come volete. Non c'è un modo per legarlo minimo saldamente senza... Scusa, ci sono dei sassi abbastanza grandi, cioè dei piccoli massi? Sì, andandoli a cercare in mezzo alla foresta, sicuramente. Ah. No. Perché se li mettiamo, se lo mettiamo a 4 di spade e poi gli mettiamo un masso per ogni arto, lui non si alza, cioè. E non so, a questo punto decidete voi, siete voi che avete fatto tutto. Da me non viene nessuno, non ho nessun oggetto che possediamo noi con cui si possa legare. E io non so se è anche il caso magari di ucciderlo. So che io ho fatto giuramento, però a questo punto è la nostra sopravvivenza la sua. No, cioè l'obiettivo era magari cercare di capire qualche informazione, però sì, non so se... Sì, ma è solo impazzito ed è temporanea. Potremmo provare a legarlo, sì. Però poi dovrete gestirlo voi. Intanto che voi pensate, vado ad assicurare gli altri e se ne va. Raga, abbiamo qualcuno, abbiamo il liquido, quello che ha fatto ubriacare Marco e Gianfe, o l'abbiamo finito? No, non l'avrebbe bevuto. No, già, scusami, Marco. Mi sa che Marco è ancora in chiamata, quindi in realtà può aggiungersi anche da solo. Aspetta. Ah, ma non è online. Sì, però non è online, esatto. Cioè, dovrebbe tornare. Capito, vi chiedo se abbiamo ancora quella bottiglia con cui vi siete sbronzati. Tu, Fede e Marco. E sì, ci sono ancora 3 dosi. Okay. Io stavo pensando che se vogliamo prendere tempo, adesso che è svenuto, glielo facciamo trangugiare. Almeno se si sveglia, sta comunque sballato e non può essere pericoloso. Potrebbe provare. È l'unica cosa che... abbastanza. 2 dosi dobbiamo usarle, cioè, sì, dai, o tutte e 3? 2, dai. Sicuri? Dai, con 3 lo ammazziamo, secondo me. Anche con 2, forse. Vabbè, c'ha super cazzole resistenti, c'ha avrà pure il metabolismo veloce. Cioè, super pene durissimo, questo. Ah, esatto, quindi anche quando il pene moscio è turgido, però. Va bene, e gli fate trangugiare 2 dosi, sicuri? Sì, dai, 2. Va bene. Dopodiché? La mia idea era quella di prendere dei sassi abbastanza grandi e magari tipo spiaccicargli gli arti, tipo mettergli un sasso per ogni arto in modo che stia un po'... Vedete che la gamba destra dove è stato colpito è tipo spezzata. E ha è curva in modo innaturale. Brutto. Ah, ok, allora serve un sasso in meno, direi. Come in un western. A proposito di western, sotterriamolo fino alla testa. Cazzo, è vero? Potremmo. Però come cazzo la scaliamo una buca così grande? Vabbè, siamo sulla sabbia adesso. Siete tanti. Potere mani a banga. Vai, proviamo, lo sotterriamo fino a tutta la testa, testa esclusa. Faccio io. Easy. Dici. Cazzo, gli mettiamo pure i sassi sopra, voglio vedere. Ma non c'è aggiunto, però non... Boh, ho detto che... Sì. Ok, sono sul cellulare, però no, però... Okay. Quindi magari un riassunto il video rapido. Un po' meno dati. Fate un riassunto rapido a Marco. Allora Marco, praticamente, sto tizio è stato accoppato, stiamo cercando di capire come possiamo legarlo, gli abbiamo dato 2 dosi di quella specie di bevanda alcolica che ha fatto intossicare te. Buona idea. e Fede. Ora stiamo pensando di scavare una bella fossa nella sabbia e di insotterrarlo fino alla testa. Ok. In modo che rimani immobilizzato grazie alla splendida idea di Luca, e poi ci mettiamo sopra tipo, che ne so, un paio di massi pesanti in modo che non si può più alzare. Ok. Giusto per fargli qualche domanda in caso lui sapesse qualcosa. Boh. Mi sembra una buona idea. Io sono ancora svenuto. Sì, ti sto curando col medico e sto cercando di farti rinsalire senza riuscirci, però. Ok. Sì, sei ancora svenuto e Jacopo invece si sta risvegliando adesso. Vabbè, spieghiamo questa cosa anche a te. Speriamo questa fuga. Ok, cominciate a scavare. Sì. Tranne Gava, immagino. Prego, dopo di voi. Quindi tutti tranne Gava e Marco prendete un punto fatica. E fu così che venne usato come pala. Gava ha una gamba che è praticamente immobile. Io sto cercando di quello. Cioè, cosa stai facendo? Prendendo gli oggetti. Non è vero, non me l'avevo tutto mai vedere, se non l'avrei scritto. Ve lo devo dimostrare. Te lo dico, non hai trovato niente da lui. Per quello non lo, anche risentendo tutta la puntata, non ho sentito niente. No, c'è un pezzo in cui dico, hai trovato questo, questo, questo, questo e questo, e basta. Tranquillo, prima o poi ci arriverò a quel punto. Vabbè. Vabbè, allora... Cominciamo un po' io, dopo un po' che Marco non rinsavisce, mi rompo le balle e dico, vabbè, al medico, provaci tu a farlo rinsavire, noi scaviamo la buca. Ok, scavate la buca, appunto, e poi provate a seppellirlo. Quando lui è quasi seppellito e comincia già a farneticare, tipo il quinto, e Marco si sveglia. Ok, ho ancora meno di 10. Sono passate un paio d'ore. Ok. Quanti punti ferita ho adesso tecnicamente? 10. Alla testa? Sì. Ok, perfetto. Prima cosa che faccio è attivo il mio potere. Mm-hmm. E tra l'altro, se leggo bene, cioè ogni turno che è attivo posso scegliere una locazione diversa per recuperare 10 punti. Dovrebbe essere. Come cazzo si chiama? Fattore rigenerante. Diciamo in una locazione a scelta. Boh, non perché non dice quando attivi il potere, quando attivi il potere, solo non lo so, non mi interessa, va bene. Non ho capito niente, perché tra quello che ascolta e... Perché niente? Oh, magari hai pensato a questo alimento. E quelli che parlano non ho capito un cazzo. Ho ancora 5 punti ferite in meno alla testa massimale, intendo. Quelli non li puoi togliere. Quelli restano, va bene. Figo tipo pane. Vabbè, è come una brutta cicatrice, ma vai, dentro. Ho riempito una borsa. Gentaglia? Sì? Il tizio si è svegliato e anche Marco. Io mi curo e poi dopo li raggiungo. Allora, io mi butto sopra il tipo per non farlo alzare. No, il tizio è seppellito. Ah, quindi non si muove, sta sì, là. Sì, sono passate 3 ore. Ok. Io mi avvicino al tizio e gli faccio... Non più. Ora si calma, vuoi parlare? Lasciatemi, devo portarvi al tempio. Io vedi che comincio a scaldare la mano, cioè tipo mi si arrossa un po' la mano. Se boom, prendi un punto fatica e un punto psi. No, se non lo posso fare senza sparare non lo faccio. No, beh, in realtà un punto fatica non lo perdi perché è passata più di un'ora. Perché ci vuoi portare al tempio? Di cosa stai parlando? Ma soprattutto cos'è il tempio? Il quinto sta arrivando, il tempio. Non le sentite le campane? Il quinto, aspetta, ma ti riferisci a quella creatura che... Ah, quel quinto. Quel quinto. Quel quinto. Ah, no, bisogna... Io prima del sesto, dopo il quarto. È quello. Non capite? Le campane. Lasciatemi. Vi devo portare al tempio, al tempio. Ma io gli dico, guarda, se ci dici dov'è, ci abbiamo anche lo sole. Mi devo portare al tempio. Il tempio è al centro dell'isola. Ah, perfetto. Ok, grazie. Per caso c'è un lago intorno al tempio? Lasciatemi. Vabbè, ci ho detto dove è il tempio. Dobbiamo andare al tempio, uccidiamolo, cioè basta. Dopo un po' arriva il medico e fa: vi ha detto qualcosa? No. No. Sta continuando a gridare, è matto. Tirate su sociale. Oh, 6, 3. Ok. Va bene, magari ve lo dirà o magari è semplicemente impazzito. Ok. E quindi cosa vogliamo fare per risolvere questa situazione? Voi state bene, ma qua c'è gente che è grave, il vostro amico, la ragazza. Beh, direi che tu puoi restare qui a controllare i malati e il tizio seppellito e noi cerchiamo di indagare ulteriormente. Cioè, mi lascereste con un tizio seppellito che se si libera ci uccide tutti? Ma stai tranquillo che non succede niente. Ti lasciamo Gava con te, guarda, ti aiuta lui. Esatto, e poi vi portate dietro lui che vi potrebbe rallentare. Effettivamente, tu perché vieni con noi? Ma a me piace il giro magari, sai, c'è un bel po'. Certo, sì, sì, sono bello, bello. Certo, il paesaggio è molto bello, ci sono gli alberi, le montagne. Tanta gente a divertirsi. Devo stare sempre in spiaggia. Montalberi. Al bagno, se devo stare sempre sulla spiaggia, poi mi annoio un po'. Almeno mi faccio un giro. Faccio un giro dove che non puoi camminare? Eh? Un giro dove che non puoi camminare? Non mi posso. Io cerco di fargli un disegnino sulla carta, su un pezzo di carta se lo trovo, o sulla sabbia, di quella figura che stava dentro la caverna, quella specie di mostro, di cosa, di presenza soprannaturale. Cioè, una divinità. Esatto. Tira su mente. Fatto 3. Gli dico, è questo? Il quinto? Ah, al demente. Sì. Ah, lui guarda e fa, non capisci, le campane, il quinto. Vabbè, basta, ci rinuncio. Il quinto sta arrivando. Vabbè, scusate, ci ha detto che c'è un tempio e che questo tempio è al centro dell'isola. Sto tizio, cioè, nel senso... Lo lasciamo qua, con Federico e il medico. E eutanasia. Ma lo ammazziamo? Vabbè, dai. Se non lo fate voi, lo faccio io. Ci vuole fare voi, voglio vedere come fa. Vai, vai. Voglio vedere come lo ammazza. Busta di plastica. Fai! Busta di plastica in testa e basta. Sì, fine. Mio Dio, ma... Sì, uno psicopatico. Ma ci vorrebbe la vodka, se no sarebbe tutto bello. Gava è troppo serial killer. Io adesso ho un po' di paura a stare in una stanza solo con voi. Fortuna che sono in chiamata. Non ho vabbè, no, ditemi voi quello che volete. Boh, a me sembra sicuro, lui dice, vabbè che c'ha la pelle invincibile, però sta seppellito, che cazzo fa? Vabbè, è sepolto e anche una gamba rotta. Cosa potrebbe mai succedere? Tornate tutti morti. Che compri il potere a fine super forza e a fine. Quello non c'è scritto nell'avventura, non posso farglielo fare. Ma vorresti. No, no. Tra l'altro lui no, è veramente... Siamo... Cioè, ma assicuriamolo meglio, cioè buttiamoci tipo dei massi sopra in modo che sto cazzo non si alza che muore. Sopra inteso in testa. Ammazziamoci nel senso che poniamo fine. Oh, se no ammazziamolo, cioè, amen. Quelli che non hanno detto niente? Possiamo lui che ogni volta che si sveglia il tizio gliela botta in testa la tramortisce? Ma non è stato male lui. Beh, è una cosa molto forte. Non ho capito perché vuoi darlo in vita. Ah, perché è una persona evidentemente disturbata, cioè... Beh, se... Ma in che senso? Se è malata bisogna ucciderla. È così. Ok, Gava, tu da qualcuno questioni politiche magari teniamole per un altro RIP GDR si dissocia da questo ospedale per cavalli. Molto, molto dai, questo... dall'ospedale per cavalli. Ok, quelli che non hanno detto niente cosa dicono? Quel coglione che sta guardando gli episodi vecchi cosa dice? Non ha più detto nulla da quel momento. Ah no, infatti ha funzionato. Ma perché lui mi accusa che mi ha detto, non me l'ha detto sicuro, se no è impossibile. Te lo giuro. Guarda, io dopo me la riscopro tutta quanta e ti faccio. Mi sono perso. Allora, facciamo una scommessa. Se non è così, mi dai 5 punti di esperienza gratis. Praticamente c'è Jump che ha detto lo perquisisco, cosa trovo? Io ti ho detto guarda che ti avevo già detto cosa ha addosso lui, quando tu hai perquisito tutti. E lui non è vero, non è vero. E così ha cominciato ad ascoltarsi la puntata. Scusami, sai dire a che punto ci troviamo nella puntata almeno? Dimmi solo questo. Ma che cazzo ne so, non so memoria i minutaggi. Che cosa sono? Memoria. Va bene, certo. O magari non era nella scorsa. Ah no, sicuramente non era nella scorsa, nella... Tutto nel... Due volte che la puntata che non c'è del cazzo. Ma no, perché... li hai perquisiti appena avete naufragato. No. Eh sì. Ma buono, allora tu sei proprio un bastardo. Cioè, non è che posso lo riperquisisco. No, scusa... Sotto la sabbia, però come sabbia che non mi ricordo una cosa nel quale la gente mi ha fatto vedere delle cose che aveva che poi si è rimessa in tasca perché erano loro, giustamente. E posso ricordare che ho visto 100 cose nella realtà. Allora, io non lo so. Allora, in gioco sono passati 2 giorni, fuori dal gioco tipo un mesetto, però vabbè. Io in 2 giorni penso, io mi ricordo che succede il giorno prima. Vabbè, dopo 2 giorni per me non hai trovato niente altro. La prima volta non trovi niente neanche la seconda. Quando sei cattivo. sei un baro. Vergogna. Cioè questo era ascoltare la puntata della scorsa settimana. Come cazzo? Sì, cazzo. Ma sembrava stare. Non mi ricordavo un cazzo aver fatto dietro con questo tizio. Io adesso me la riascolto, quindi non ritrovo quello che vuoi. A chi tocca, così... vuoi? Ti dico già che in realtà lui non l'avevi perquisito perché era... stava inseguendo Edo nel boschetto per prendere la legna. È vero. Mentre Jump faceva il giochino di chiedere gli oggetti alla gente... Il tizio di Brasile. Ecco perché non me lo ricordo. Che è strano, che ricordo sempre tutto. Ma stai zitto, già. Scusami, mamma, onestamente, fuori da tutto questo casino, è possibile che non trovo proprio niente addosso a sto tizio? No, lui non ha niente addosso. Se ce l'aveva, sicuramente non ce l'ha più perché dopo 3 giorni o tipo aveva un portafoglio che è cioè nella roba comune. Oppure dei vestiti con cui si è tolto, eccetera, non c'è niente addosso. No, dai, non è onesto, allora dai, ti do ragione stavolta, ci sta. Lascia a ridere però, perché nella puntata in realtà c'è lui che non lo perquisisci mai, perché è nel boschetto con Edo. Io c'ho un binocolo però, Va bene, cosa mi dite però di quest'uomo? Vabbè, allora intervengo e dico: oh ragazzi, dove andiamo oggi? Allora, è più o meno dopo il mio internet, posso ripassare sul computer? Sì. Sì, boh, per me puoi fare quello che vuoi. E, dicevo, è più o meno mezzogiorno. Sì. C'è ancora tempo per una passeggiata. Quindi cosa dobbiamo fare, tizio? So, secondo me mettiamo anche la sabbia in bocca. Perché dopo questa sabbia ce l'hai? C'è solo quello, che cazzo devo fare? Non so come divertirmi. Stare di sabbia, che bevo sabbia. Ma dovrebbe riuscire a aggiungersi, perché? Anche allora. Cioè, da solo sì. Vabbè. Vediamo se riusciamo. Tu, Luca, che non ha detto niente? No, io sono per lasciarlo lì. Ma vivo o no? Beh, sì, scusami, lei non uccide. No, ho sentito poco. Sei per? Per non ucciderlo. Cioè, alla fine, ruolando come noi, non è che ammazziamo una persona così senza motivo. Luca, ti credevo una persona diversa. Ma sto ruolando me stesso, quindi credo di essere abbastanza persone deliranti. Bene. E io l'ho chiamato. Marco. Comunque Andrea mi ha appena mandato uno screen di Marco con Irelia a 13:15. Beh, era quasi in positivo. Ma 13:15 in Aram, però no, normal. Ma cazzo ha fatto a morire 15 volte in normal? So io. Non c'è il minutaggio per morire 15 volte. È peggio di me, da susso. Che cazzo di vino ha fatto Marco? Marco. Vabbè. Stiamo provando a chiamare. Scusate, dicevo. E quindi come vi muovete? È ora di pranzo? Ditemi voi. Ok, dovrei riesserci completamente stavolta. Okay. Sembra sia tornato. Dicevo, Luca si è espresso e non vuole ucciderlo. Gava vuole ucciderlo. Edo. Allora, io sono per idem lasciarlo lì, tanto c'è una che rompe il ballo. Jacopo è quello che sta riascoltando le puntate? Vabbè, io faccio quello... No, andiamo, chi se ne frega? Lascialo là, ma che te ne fotte? Okay. Io sono per lasciarlo lì e mi preparo a partire. No, ci sono le gare buone, anzi io lo lascerei libero. Ok, quindi come volete muovermi? Mi muovermi. Allora, io dovrei aver lasciato, esatto, io dovrei aver lasciato un po' di cose, tipo cibo, papà. Direi che possiamo prendere un po' di cibo, un po' di... Beh no, magari è meglio riposarci un po' prima. Magari sì. Riposarci un pochino, prendere un po' di provviste e partire alla ricerca di sto tempio. La ricerca di tempio. Se ci possiamo recuperare un po' di fatica, bravo. Cioè, nel senso, lui è stanco nel gioco, quindi lui deve recuperare un po' di stanchezza. Con chi stai parlando? Cogliamo, però non mi vuole più rispondere. Sai come mai? No, ti capisco. Non si stipali. Vabbè. Ma nel fumo lo ignoriamo proprio? Ce ne sbattiamo? Direi che per ora è importante andare lì all'isola. Cioè, lì a schermo. Aspetta, chi ignoriamo? Il fumo. Fumo nero. Quello che si muove, ah no, un altro colore. Mi piace la cosa tosta. Direi di scegliere le due strade per correrne una, insomma, o seguiamo il fumo oppure andiamo a vedere, a cercare questo tempio. Poi ci dividiamo e facciamo il tempio. Poi ci dividiamo e moriamo tutti. Sì. Magari il fumo è... Pensate... Vabbè, chiaramente dobbiamo andare al tempio, però la logica non mi porterebbe ad andare al tempio, perché lui voleva portare... cioè, quello che abbiamo appena picchiato voleva portarci al tempio per ucciderci e noi stiamo andando dove lui voleva portarci per ucciderci. Però vabbè, può stare a tempo. Però senza di lui magari... Magari si può. Possiamo... Cioè, perché magari al tempio non moriamo se non c'è lui. O magari... Non era il suo piano di ucciderci. C'è la sicurezza con cui l'hai detto. Magari non ci uccide davvero. Ah, ok, a posto. Mi hai appena creato il meme della serata, Jacopo, grazie. Arrivo subito. Magari Salla non lo so, per me è pure rispondere a te. Insomma, fate voi, decidete se non vogliamo fermarci qua. Magari potreste decidere dove andare. Perché la sente purtroppo dalla spiaggia, cos'è più vicino secondo la visione che avevamo prima? Il fumo o il tempio? No, la porta prima, la porta prima. Allora, il fumo non sapete esattamente dove si trova. E diciamo che così a occhio il fumo vi sembra venire da sud, certo. Mentre se avete pensato che il tempio fosse verso il centro, le distanze sono più o meno simili. Probabilmente il lago è più facile da vedere di qualcosa all'interno della foresta. Tecnicamente dovremmo anche cercare un modo per abbandonare l'isola, probabilmente. Beh, posso fare l'ora. C'è sempre la possibilità di riposarsi qua e ripartire il giorno dopo. Io me ne vado. Volevo. Ma tu pensi il tuo potere, ci può dire tutto. Esatto, dobbiamo fare expire l'ora. Che ore sono? Abbiamo tutti i nostri expire. Le 12 più o meno. Dai, io propongo di andare prima al fumo, magari passando per la spiaggia inizialmente, poi andare al tempio. Ci può stare? Sì, sembra una buona idea. Sì. Ok, quindi partite subito? Andare al paggio. Non so, io farei magari rifocillare, farei riprendere un po' Marco che ancora lo vedo un po' intontito. Ma no, io sto benissimo. Non so. In realtà Marco sta molto bene, il più stanchi sono Gava e Jacopo. Ho una brutta cicatrice che mi rimane in faccia per peggiorare ancora di più la situazione. Perché... No, devi questo lì. No. Cioè... Il tuo compito, Fede, è fare la guardia a tizio. È molto importante, non pensare. Come farò la guardia io a sto tizio, allora? Sì. Ah, quindi Gava rimane lì? Cioè, io non vorrei. Sì, perché un po' ci rallenta, poi la gamba magari peggiora. Riesce a camminare, Gava. Però guardiamo positivo. Sì, ma zoppica parecchio. Riusciamo a pensare tipo se ci riposiamo un altro giorno qui, che la sua gamba migliori abbastanza da seguirci? Possiamo provare. Se il medico riesce a fare qualcosa con le poche cose che ho portato, proviamo. Se solo qualcuno potesse curare con dei poteri divini. Otis. No, non lo prendo mai a curare. Grande altruismo, complimenti. Non si può forzare la campagna per una cosa, cioè nel senso... tra l'altro detto da Jaff, che egoismo, esatto. È tipo, okay. Il secondo nome. Vede che dobbiamo uccidere i malati con la gamba che li dobbiamo amputare, quell'altra che dice così. La E di Jaff vuol dire così. Ok, quindi vi riposate una notte lì. Proviamo, dai. Ok, mangiate quello che trovate o mangiate dalle vostre provviste? Proviamo a mangiare. Tre le provviste per il viaggio, sinceramente. Esatto. Okay. Ricordo che le provviste non le avete fatte vedere agli altri. Adesso se andiamo ad andare a rischiato, anche se andiamo dietro i panini. Sì, allora sì. Ma io provo a pescare, a mangiare qualcosa, cioè qualcosa che troviamo. Okay. Loro hanno trovato solo radici e schifo. Possiamo provare a pescare qualcosa? Con cosa? Sì, alla frutta siamo... Con le mani? Un animale ormai, ho anche i piedi palmati. Dovrebbe aiutarmi a... in qualche modo. Cioè, non credo. Prendo un bastone, gli faccio la punta e... Voilà. Non credo. Lancia, fiocina. Marco, la Gianna ce l'ha. Dai, ma è un idro, non c'è qualche cinghiale, cioè, che ne so. Il meme di Oddis. Jacopo. L'ho fatto adesso in 2 secondi perché Jacopo me l'ha proprio tirato questo meme. Scusate, non ho capito. Volete pescare, quindi? Si possono pescare i cinghiali? Ok, chi fa la prova di pescare? Volevo provare io. Non lo so, ci volevo provare io se ho qualche vantaggio. A mani nude. Sì, prendo un bastone, lo affilo e poi provo a usare tipo il proprio oggetto sott'acqua e vedo se riesco a infiocinare qualcosa. Ok, quanto tempo vuoi impiegarci? Ah, tanto dobbiamo riposare un giorno. Guarda. Fino a che c'è luce, quindi fino più o meno alle 6. Sì, anche... Ok, tira 2 dadi da 6. Anzi, 3 dadi da 6. Uno, due, quattro. Ok, allora vedi che capisci che il metodo non è così semplice come sembra e solo nell'ultima ora riesci a prendere 2 pesci. Tutta di via. Gli altri? Io provo a entrare un po' nella foresta, ma non molto, cioè... Cerco di rimanere più o meno nelle vicinanze del villaggio, cerco magari qualche frutto, qualche... Io vado insieme a Edo. Ok, animale. Tirate per raccolta. Un di 6 sempre? Sì. 5. 5 anche io. Top! Ok, trovate delle radici simili a quelle che vi avevano offerto il giorno prima e che probabilmente vi cioè, sono commestibili. Gli altri? Io pesco. Ok, tira anche tu. 3-3-3. Non prendi un cazzo. Mi dispiace. Questi pesci sono veloci. Cazzo, ok, gli ultimi? Dunque, non fare quei movimenti. Così? Mi mancano Jacopo e Gava, cosa fanno fino a sera? Io un po' mi riposo, no, prima provo a, diciamo, a cercare tipo anch'io le radici, le bacche, le cose, poi mi riposo però. Ok. La sera mangiate e andate a riposarvi. Tu, Gava, vedi che la ferita si è un po' rimarginata del morso, però la gamba è ancora molto gonfia. E tu hai ancora della febbre, che si è un po' abbassata con gli antinfiammatori, ma continua. Fai un tiro di fisico. Allora. 2. Okay. Ok, andate a dormire. Vi svegliate la mattina dopo. E già. Recuperate tutti 10 punti ferita a ogni locazione, tranne Gava. E dai! E recuperate tutti 2 punti fatica. A voi. Anch'io. Sì, anche Gava. Bravo. Svegliandovi e guardando il mare, allora la temperatura è rimasta invariata. No. Fammi vedere se piove. Sto avendo un bruttissimo pensiero in questo momento. Bel tempo. Ok. Ho avuto per un attimo il pensiero del tipo, Abbiamo sotterrato il tipo abbastanza in alto per l'alta e bassa marea? No. Se ci fosse stato un mare grosso, probabilmente sarebbe morto. Okay. Ora che ci stai pensando, probabilmente è così. Ma è una bella giornata. Errore sperimentale. Se la prossima volta meglio. Sono 4 giorni che siete sull'isola. La tipa tiene ancora duro, è morta. La tipa sembra che stia abbastanza bene, nonostante la gamba le sia stata amputata. Beh, dai, complimenti. E, tiratemi tutti cercare. Cercare? Sì. Sei, no? 2, 3, 5. Grande. 6, 5. 1. Ok. Luca? 4. Sì, scusa, aspetto sempre che mi chiami, comunque 4. Allora, quindi chi ha fatto 4 più? Ok. Io ho fatto 5. Se nel caso si fosse capito. Luca, tira un di 10. No, non me l'aspettavo. Ecco. 8. Che figo. Mi è saltato il microfono. No. Mi sentite bene? Forse è un problema di cuffia. Edo, un di 10. Un Zanf, un di 10. 7. Zanf? 6. Ok. Ok. Allora, svegliandovi tutti, vedete che ci sono come dei grossi pezzi di lamiera. Probabilmente appartenuti alla nave da crociera, che stanno riaffiorando dal mare. Avvicinandovi, andate lì e guardate un po' in giro. E Jump, quello che vedi è uno zaino. Edo e Luca trovate 2 scatole. Edo una scatola abbastanza grande, tipo così, e Luca una scatola un pelino più piccola. Ok. Degli altri trovate solo corde sfilacciate, pezzi di lamiera e nient'altro. Wow. Jump, aprendo lo zaino, trovi una tenda. Tenda, scrivo subito. Aspetta, ma stavolta non mi preghi, cazzo. Tenda. Una tenda che può ospitare massimo 2 persone. Top. Che serve a me? Edo? Sì, trovi delle razioni di cibo liofilizzato per 2 giorni per una persona. Ok. E Luca, nella pistola, nella scatola trovi una pistola che però è una pistola con un razzo di segnalazione. Ah, ma boh, dai. C'era anche la pistola vera, ma dovevate tirare un 3. Voglio di niente. Vabbè, posso sparare anche il razzo di segnalazione in faccia alle persone. C'hai un solo razzo, sì. Okay. Però potrei potenziare il razzo per fare come prima e tirare un bel 1. Lo vedono su Nettuno. Ok, quindi vi incamminate. Immagino farete un pezzo di spiaggia e poi un pezzo di bosco dopo un po'. Io provo se funziona la pistola sparando in acqua. No, sto scherzando. Con un solo colpo. Sì, scusa, mi vale. Sì, ragazzi, funziona. Dicevo, immagino che facciate tutti un pezzo di spiaggia e poi un pezzo di bosco. Sì. Ok, vabbè, il tizio è tipo svenuto, mezzo disidratato. Io santo, speravo che fosse, dovevamo dirlo, che lo dovevamo nutrire, non lo lasciavamo morire, così. Pensavo fosse sottinteso. Non è disidratato perché non l'avete nutrito. Cos'è un bambino che abbiamo nutrito? È disidratato perché l'avete strafatto di latte di Roma. Schifo. Sì. Vabbè, succede, mi dispiace. Gli diamo un po' d'acqua prima di andare via. Tipo, lui si riprende, sembra un po' più meno psicotico. O... No. Continua a urlare, a gridare appena lo svegli. Buona faccia. Che coglioni sto tipo, però, cioè. Ma dice sempre le stesse cose? Sì. Okay. Immagino che non faccia troppo bene al morale della gente. No. Ti viene da pensare che appena ve ne andate... Lì... Troppo, gli esseri umani fanno schifo, non è che possiamo farci troppo. Ok, detto questo, questa è nuova? Sì, live. Ah, live. No, ma chi butta con pain. Andrea support con Zilia, vediamo come andrà, divertente. Ok, salutiamo Andrea e Marco che non ci ascoltano. E dicevo, scusate, avevo un'altra domanda importante. Gava viene o no? Secondo me no. Come, se sta un po' meglio rispetto a ieri o... Non sta come ieri più o meno. Cioè, non ha febbre, se è sotto antidolorifici. Però dire che sta bene è tutta un'altra storia. Io sono per far decidere a lui, a patto che venga con le sue forze. Ah, probabilmente il veleno non ha più effetto, lui può zoppicare e comunque dal veleno è riuscito in qualche modo a guarire. Questo è quello che vi dice il medico. Però l'infezione c'è ed è abbastanza grave e non sa quanto riuscirà a tenerla a bada. Vabbè, amputare, cioè è easy. No, non è un problema di gamba, è un problema sistemico. Ah, uccidiamo, amputiamolo tutto. Vabbè, me ne sto col medico. Come volete. Cioè, probabilmente da domani potrà camminare, però zoppicherà e comunque sia... Cioè, zoppica un po' meglio, zoppicherà un po' meno di adesso, però... L'unica cosa è che io non posso fare niente da qua, quindi magari trovate qualcuno che può guarirlo. Magari sì, trovare qualcuno che può guarirlo, lo Spirito Santo, no? Cioè, chi? Niente, se magari potremmo tipo intanto andare a far controllare il fumo e tornare... a capomento domani e riprenderlo su per andare al tempio? Allora, peggio possiamo, cioè vediamo pure quanto ci mettiamo per arrivare al fallo, dove pensiamo che sia il fuoco, vediamo cosa c'è e poi torniamo all'accampamento. Allora, peggio possiamo fare pure. Come volete. Sì, dai, proviamo a fare così. Ok, camminate. Tiratemi a tutti su mente. Su mente. Ho fatto 6. Tu no. Esco. Lo tiravo un di 6, quindi. Ho fatto 6. Sei meno... 6 meno un quarto, dai. Ok. E... Jump, andando avanti. Sai bene... Sì, dimmi. Ti hai più o meno un'idea di quando rientrare nel bosco e dici agli altri che secondo te la via migliore adesso è passare dalla foresta. Però sono per io entrato... Però sono io a dirle, quindi probabilmente nessuno mi ascolterà. No, no, sì. Il fatto è che tu... probabilmente sì, il fatto è che tu ti muovi verso la foresta e vedi delle tracce tipo di... pezzi di corda e una punta di freccia, vedi come delle tracce di civiltà, e quindi loro ti credono e si spostano verso la foresta. Basta. Camminando mi fate un altro bel tiro di osservare. 6. Oh, 5. Sta andando bene sta cosa. Fa tutti 6? 5 io. Caputtana. Ok, a un certo punto vedete anche, cominciate a vedere anche altre tracce e alcune trappole per animali e anche trappole un po' più grosse, tra cui una trappola di quelle a corda che ti quelle come quella in cui siamo caduti tipo noi, quella prima. Esatto, riuscite a evitarlo e continuate a avanzare. Ah, volevi avanziamo più cautamente, non delle trappole molto avanzate, diciamo. Per essere una molto trappolose. Possiamo far scattare quelle che vediamo giusto per evitare di finirci poi ritorno per taglia. Potete farle scattare. Sì, buttiamo sopra. Sei venuto da me, non mi ricordo più. No. No. Allora, chi possiamo buttarci? Fate scattare le trappole? No, no, non credo sia buona idea, così. Sì, cioè, sì, facciamo scattare con sicurezza. Alla prima trappola che fate scattare, venite aggirati da lance. What? In che senso? Vedete le lance che spuntano dalla boscaglia e escono diversi indigeni. Ah! Che vi guardano. E cominciano a borbottare in un linguaggio strano. Ok. È morto. Io parlo tipo in inglese o in tedesco, così se parlano qualche lingua italiana, cioè qualsiasi lingua. Io parlo in sabbia. Vedete che vi puntano le lance e vi fanno cenno di seguirli. Io faccio le ricerche di lancia, dico che siamo amici. Ok, direi di provare a seguirli per siamo amici di lance. Nella prima occasione, ucciderli tutti a sto punto, perché sembra che l'unico modo per operare bene sia uccidere chiunque incontriamo. Sono circa una decina loro. Ah. Ok, li seguite. Vi fanno camminare un altro chilometro almeno. Arrivate a un villaggio vicino ad un altro corso d'acqua. Il villaggio degli indigeni è composto da poco più di una decina di case di legno, palma e sterco. All'interno gli uomini girano seminudi esattamente come le donne, in una società apparentemente semplice, basata sulla raccolta e la caccia. La vista di un gruppo di estranei non sembra stupire eccessivamente i selvaggi dai volti dipinti che, dopo un primo sguardo perplesso, continuano a dedicarsi alle proprie mansioni. Sì, sono più o meno 26 capanne. Capanne o persone? Capanne. Gli indigeni vi conducono in una capanna e vi portano... dove c'è una sorta di tizio più vecchio, tipo tipico, tipo sciamano, saggio. Prima di entrare però, all'ingresso, voi potete vedere l'interno, perché la tenda è aperta, però ci sono due tizi molto grossi che vi porgono due noci. Ah. Piccole così. Due noci? Cioè, noccioline una... tipo? Sì, due noci inteso due cartoni. No, due noci e vi intimano di farle mangiare una a testa. Ah, ok, ci sta. Cioè, come in senso, scusami, no, come due noci. Due noci e una a testa, scusa, non capito. No, ve ne danno due, scusate, ve ne danno una a testa e vi dicono di farle mangiare. Okay. Cioè di mangiarle, di inghiottirle. E io dico a Luca di schiacciarle con i suoi muscoli. No, dicono proprio di inghiottirle. Ah, in te? Ah, ok. Annuso, l'odore è strano, tipo sanno di qualcosa. Tira su mente. 6. Ho qualche odore... vantaggio... È in qualche modo simile a quello dell'intruglio che hai bevuto. Ah, ci pensavo. Che boia. Ma tu già ci hai fatto la testa. Oh beh, senti, se vogliono farci fare le visioni, a sto punto contentiamo. Mangiate tutti? Io la mangio, provo a fare cenno a Gianfe di... Magari, no, beh, io posso anche dire, tanto non mi capiscono, di trasformarla in zuppa inglese, in qualcosa che non gli faccia nulla con il suo potere e fare finta di addormentarsi. Però... Vabbò, io lo posso fare? Potete fare... Aspetta, questo mi sta fregando. Io ho il potere che posso fare oggetti materiali, inanimati, non organici. Ah, no, non lo so sta cosa, io è la prima, è quella cosa a cui avrei pensato, ho detto, trasformatela e mangia qualcosa. È organica? Sì, l'uovo è organico. Continuano a darvi, tipo, a dirvi di mangiarlo, di muovervi. Io lo mangio. Va bene, io lo mangio. Io lo mangio. Scusa, ci hanno disarmato completamente? Non ancora. Mi cazzano, mi piace. Te lo dico anche nel gioco. Non fare cazzate. Ma io sono Jump e quindi farò la mia solita cazzata che farà innervosire tutto il gruppo. Però alla fine un po' sono felice, quindi mi diverto. Io cioè non lo faccio in senso molesto. Prendo la noce. No, la noce. Prendo tipo... Ma non c'ho altro. Ah, prendo il binocolo. Ecco, così niente di offensivo. Prendo il binocolo. Che cazzo ci faccio? Sto pensando a qualcosa per mostrare il mio potere, capito? Così li indibilisco con la potenza della magia. Quello che stai cercando di dirti in maniera molto complessa è che mangio la noce. Non so, cioè, per me può fare quello che vuole, può anche andare lì e pisciare sulla tenda, basta che me lo dica. Io prendo la noce, okay. La alzo, okay. E uso il mio potere su di essa. Al fine, solo di far vedere col potere... Mi intiende, amico? Cazzo, hai quasi fatto una frase... Cioè, proprio... Aurica. Allora... Scritto... Ma... vedere la lucetta. Ok, la noce cosa deve diventare, scusa? Un oggetto potenziato. Non lo so, cioè, in qualcosa di... Di migliore, di qualità. Un anacardo. Un profiterolo. Se è una noce, faccio diventare, ne so, una noce come la penso noi, quella che vai a comprare normalmente, già sbucciata, capito? Una cosa che io mangio non mi faccia niente, per dire. Cioè, praticamente vuoi togliere la buccia. Facciamo così, sì, dai, ci sta. Fai una cosa, ma è una cosa stupida, solo per far vedere che ho il potere. Giù mangi. Esatto. La noce perde la buccia. Tirami su riflessi. Ti arriva. Hai una lancia che ti trafigge il fianco adesso. Più o meno sì. 5. Bene. Qua lui dice: gli indigeni non avranno paura di nulla se non degli Heroes manifesti che tenteranno di rendere inoffensivi anche con la forza. Quindi cosa devo fare? Allora, schivi il primo pugno che ti arriva. Due indigeni ti prendono, ti stringono, ti legano e ti portano con la forza al centro del villaggio. Qualcun altro vuol fare qualcosa in tutto questo? Vedo proprio di no. Me lo sono cercato. No! Cosa sembra che vogliano fare il povero Gianfe? vogliono, sembra che vogliano portarlo al centro del villaggio, okay, in cui c'è un lungo palo. Sembra, sì. Come, scusa? In cui c'è un palo al centro. Sembra che loro lo stiano portando verso di questo. Ok, inizio, stanno per fare un'esecuzione o... Who knows? Ok, nel senso... Vabbè, lo lascio arrivare al... Io non faccio niente finché arrivano al palo. Arriva al palo, gli tolgono tutti gli oggetti che ha addosso e lo legano al palo. E poi gli dicono... Uccide qualcos'altro? Due guardie rimangono lì. E una si avvicina verso di voi, altri due aborigeni, si avvicinano e dicono a voi di mangiare. Io mangio. Io mangio. Ora... Accendiamo le candeline, Gian. Ok, tutti voi tranne Jump fate un tiro di fisico. 5. 1. Ci sta. Mi sa che fa lo scudato. Cioè, è il dato del fumble. 5. 5. 3. Ok. Edo, cominci subito a sentire gli effetti un po' allucinogeni della noce. Gli altri ancora sono abbastanza attivi. Entrate nella capanna. La capanna degli anziani è notevolmente più grande delle altre. All'interno le pareti sono tappezzate di corpi mummificati degli antenati della tribù. Bello. Intorno a un debole fuoco e a gusci di cocco contenenti frattaglie, insetti e altri cibi sconosciuti, un gruppo di anziani siede, parlando sommessamente, fumando da pipe di legno. Sopra uno scranno, quello che sembra essere il capovillaggio attende serio. Il suo corpo magro è fasciato da vesti sgargianti, mentre il volto è inciso da numerose scarnificazioni tribali. Bello! Wow. Alla sua sinistra siede a terra uno sciamano, coperto da un ampio telo e una maschera tribale. Alla sua destra, immobile, un alligatore vi fissa dai suoi occhi opachi e maligni. Ah, cazzo. Ok. Venite scortati davanti a... Ma ci sta un capo con cui si può dialogare? Un tu tizio sei legato in mezzo al villaggio. A che ora volete fermarvi oggi? Possiamo anche fermarci adesso, se Luca... Luca, tu avevi esigenze di lasciare, vero? Domani alle 5.40 okay, mi sveglio. Quindi, il capo, quello scarnificato, vi fa cenno e vi dice in inglese, un po' del cazzo, di sedervi. Guardate, mentre vi state sedendo lì davanti, il tizio incappucciato di fianco a lui, lo guardate meglio e vedete che è un bianco, come voi. Okay. Occidentale. Più o meno riusciamo a capire se effettivamente il villaggio è più o meno dove arrivava il fumo dal... Sì. Ok. E qui si conclude. Ok, tizio misterioso. La puntata 9 di Zeros. No. Con un occhio del quinto che, vabbè, non si sa cosa sia. Lo rinominiamo l'altro villaggio. No, va bene così. E niente, ciao a tutti, grazie Salla per avermi ascoltato e anche Marco probabilmente e scusate a quelli di Urban Heroes per aver insultato il vostro manuale e per aver non stuprato... è un insulto, è una critica costruttiva, cioè, e per aver stuprato la vostra ambientazione. Grazie e ciao.